revoir, mon amour. Au wiedersehen, my love. Au wiedersehen. Goodbye, darling. Goodbye, my love. Au wiedersehen. Au wiedersehen. Au revoir, chérie. Au revoir. Au revoir, mon amour. Au wiedersehen, my love. Goodbye, darling. Goodbye. Sentirti dire ancora ti voglio bene. Ritroviamoci, ritroviamoci. Voglio sentirti dire ancora ti voglio bene. Goodbye, goodbye, amore. Ho messo un segnalino nel mio diario e ho colorato in rosa la pagina del giorno che t'ho sentito di ti voglio bene. Goodbye, goodbye, amore. Io lascio al lungomare un poco del mio cuore per ritrovarlo ancora al mio ritorno. Ritroviamoci, ritroviamoci, voglio sentirti dire ancora ti voglio bene. Io lascio al lungomare un poco del mio cuore per ritrovarlo ancora al mio ritorno. Ritroviamoci, ritroviamoci, voglio sentirti dire ancora ti voglio bene. Ritroviamoci, ritroviamoci, io voglio ancora ritornare.